Radio hanno fatto una cosa che insomma, l'occupazione dei grattacieli è nuovo, e poi gli dà un poco questa idea del posto che si vede e del posto che vede lontano, quindi è come un segnale di sperimentazione di quel tipo di culture che generalmente tendono verso l'underground e che invece tutto ad un tratto si prendono la libertà di occupare un luogo che nell'immaginario collettivo è collegato con il potere, con i piani alti, insomma è una sfida interessante. A parte gli aspetti immaginari, poi c'è un problema molto concreto, e cioè il fatto che si tratta di un'occupazione aperta, in cui sono a disposizione 35 piani, che vuole dire, non lo so, un centinaio, forse anche più, certamente molto di più, centinaia di vani, se la cosa gira in città, come sicuramente gira, c'è da aspettarsi un afflusso di persone che hanno bisogno di dormire anche. E allora, nella mia esperienza di occupante, so che in questi casi il gruppo promotore ha una forte capacità di proposta e quindi riesce a riempire lo spazio in modo creativo, propositivo, molto intenso, oppure finisce per diventare un luogo in cui la gente dorme. E naturalmente quelli che hanno bisogno di dormire in buona parte sono gente anche culturalmente non omogenea. E quindi il pericolo che bisogna conoscere fin dall'inizio, io ne ho parlato un poco con uno dei promotori dell'iniziativa, è il problema dei conflitti interetnici. Questa è la cosa più complicata di tutte. Cioè io ho esperienza di occupazioni in cui fra marocchini e tunisini, ad esempio, scoppiava la guerra. Questa è una cosa che va prevenuta, preparata e soprattutto evitata attraverso la ricchezza della proposta, cioè coinvolgere chi arriva all'interno di progetti che si stanno svolgendo e che evitano il ristagno di situazioni in cui poi magari nascono conflitti che non hanno nulla a che fare con motivi dell'occupazione, ma che diventano un fattore pesante. Io mi ricordo di aver abbandonato un'occupazione molti anni fa perché per l'appunto occupanti tunisini e occupanti marocchini avevano delle loro questioni magari legate allo spaccio, legate a cose di cui l'occupazione non poteva in nessuna maniera tenere conto e che quindi rischiavano poi di far precipitare la situazione. Ecco, lì tra l'altro si rischia di precipitare dal 35esimo piano, quindi è meglio evitarlo, ma ho anche avuto la sensazione, non so che impressione hai avuto tu, ma ho avuto l'impressione di una capacità di elaborazione collettiva molto intensa, cioè queste commissioni con moltissima gente, con persone competenti che dirigevano la discussione e che sono dedicate prevalentemente a tematiche di tipo architettonico, urbanistico, artistico. E nel corso del tempo, in una situazione come quella milanese, in cui il lavoro, diciamo genericamente artistico, ma più ampiamente il lavoro cognitivo, diciamo, va in direzioni come la pubblicità, la televisione, il design, potrebbe diventare un posto molto molto molto interessante e molto produttivo, molto capace di produrre molte cose, tenendo conto del fatto che al momento c'è una situazione che è relativamente garantita, perché il posto non ha destinazioni d'uso, cioè non è usato da nessuno e non ci sono progetti di uso per il prossimo futuro. E la proprietà non si manifesta, è un posto che da 5 anni è inutilizzato e nessuno ha proposto di utilizzarlo nei prossimi anni, quindi non c'è una pressione da parte della proprietà, che anzi talvolta potrebbe anche essere interessata ad una occupazione temporanea, perché questo evita un decadimento rapido dei locali, in attesa che poi qualcuno, fra un anno o due o quando che sia, si faccia avanti per dire la voglio per queste persone. La situazione politica cittadina è favorevole, perché Pisapia certamente non è interessato a intervenire. La crisi della destra in regione, anche quella agisce favorevolmente, perché nessuno da quel versante può farsi avanti per dire qualcosa, quindi potrebbe esserci un periodo, magari anche lungo, di tranquillità in cui sperimentare. La situazione che si è creata a Roma al Teatro Valle, ad esempio, in cui per mille ragioni nascoste o esplicite nessuno è interessato a cacciare gli occupanti, e il lavoro creativo, che a Roma ha caratteristiche molto diverse da quelle milanesi, là non è la pubblicità, la televisione, il design, ma piuttosto il cinema e il teatro, e però c'è stato un afflusso di lavoratori precari verso il Teatro Valle, che ha animato la situazione al punto che dopo un anno dall'inizio il luogo continua ad essere animato, frequentato, vivace, tutto. Vediamo. Allora, ieri ho ripreso i temi contenuti nel primo punto della scaletta che vi ho mandato. E il primo punto, che si chiama linguaggio e denaro, è centrato su una definizione di questa, chiamiamola come ci pare, analogia, metafora, proposta interpretativa, che fa perno intorno ad una diciamo analogia, ecco, tra il denaro ed il linguaggio. Come dicevo ieri, questo ci serve, oltre che per avanzare uno schema interpretativo possibile del fenomeno monetario in termini semiotici, anche per illuminare, forse, alcuni aspetti del divenire storico, tecnologico, concreto del fenomeno monetario, nel senso che questo non soltanto appare interpretabile come fenomeno semiotico, ma storicamente, effettivamente, concretamente, tende ad intrecciarsi sempre di più con dei processi che sono processi di tipo semiotico, linguistico. Ecco, prima di tutto E qui vengo a queste due, questo punto finale del primo capitolo, tappe storiche della, della integrazione di linguaggio e denaro, e concretamente noi vediamo perlomeno tre processi nei quali questa integrazione si manifesta, che sono uno di tipo politico-economico, uno di tipo tecnologico e uno di tipo materialmente produttivo. Ieri ho iniziato a parlare di un aspetto importantissimo di questa, importantissimo dal nostro punto di vista, dal punto di vista della sociologia della comunicazione, e questo primo punto è costituito dalla funzione che il sistema di rete, le tecnologie di rete hanno svolto nel corso degli ultimi 20 anni all'interno dell'economia, particolarmente naturale, dell'economia finanziaria. Ripeto rapidamente quello che ho già detto ieri e che cercherò di dire in maniera più ampia alla fine del corso, a proposito del rapporto tra la finanza e la rete. Mi tengo questo argomento a conclusione del corso, tant'è vero che, come vedete nella scaletta che vi ho mandato, c'è un punto qua, un capitolo 4 che si chiama Finanza e Rete, per due ragioni. La prima è che questo corso è un corso di sociologia della comunicazione, quindi qualcuno potrebbe anche dire: ma che ti salta in mente? Stai sempre a parlare di economia, che non sei neanche un economista, chissà quante balle ci stai raccontando. E quindi concludo su un argomento che ci compete dal punto di vista disciplinare e che ha una importanza cruciale, se non altro a livello culturale, a livello tecnologico naturalmente, ma anche a livello culturale, perché, come vedremo, la finanziarizzazione è strettamente collegata con una dimensione culturale che possiamo chiamare ciberculture, netculture, che possiamo chiamare culture virtuali, insomma, in tante maniere, ma si diffonde questa dimensione culturale, si diffonde, si manifesta, viene ad emergenza tra gli anni 80 e gli anni 90 e accompagna la rivoluzione o controrivoluzione neoliberista, si infiltra come un vero e proprio elemento motivazionale profondo all'interno delle culture della classe creativa o del lavoro collettivo, e dunque merita un approfondimento specifico che riguarda non soltanto la predisposizione dei sistemi tecnologici che hanno reso possibile la virtualizzazione e la finanziarizzazione, ma anche riguarda la soggettività del lavoro finanziario. Ecco, la soggettività vuole poi dire le culture, la dimensione psichica, motivazionale, in cui la finanziarizzazione si è andata affermando. Quindi, alla fine, ci teniamo questo tema, finanza e rete. In che modo l'economia finanziaria non soltanto si è avvantaggiata tecnologicamente della creazione del sistema di rete, ma anche ha costituito una dimensione culturale. Finanza e rete, dunque. Poi, in questo punto, tappe storiche della integrazione tra linguaggio e denaro, ho inserito altri due punti. che sono uno definito come fine del regime degli scambi fissi. Allora su questo adesso dico due cose, anche se si tratta di un argomento molto specialistico, vorrei dire, molto particolare, e poi trasformazione post-industriale, post-fordista. Allora, cosa vuole dire fine del regime degli scambi fissi? Stiamo parlando, lo ricordo perché se ne fosse dimenticato, del fatto che l'economia finanziaria, la finanza, può essere, o almeno ci proponiamo di interpretare la finanziarizzazione come un fenomeno semiotico. Ci proponiamo di comprendere il denaro come se fosse una forma assimilabile al linguaggio, ci proponiamo di interpretare la finanziarizzazione come un modello semiotico che modifica qualcosa nel rapporto tra segno e referente. Lo dico, lo ripeto perché così sappiamo di che stiamo parlando, lo teniamo sempre a mente. La tesi che ho enunciato è che la finanziarizzazione può essere interpretata così, come un processo a causa del quale il segno denaro perde la sua relazione relativamente fissa con il referente, la cosa, l'oggetto, la merce, l'oggetto di un atto economico, di scambio, di acquisizione, di consumo. Il segno e referente che in un sistema economico classico dovrebbero essere solidamente collegati fra loro, vengono invece scollegati al punto che il segno, denaro, non ha più bisogno di mettere in moto un processo di produzione del referente, la merce, come accade nell'economia classica caratterizzata, definibile, caratterizzabile dalla formula DMD. Il denaro produce merce per produrre più denaro. Non c'è più questo modello, ma l'economia finanziaria sperimenta un modello nuovo in cui D produce D senza passare attraverso M. Il denaro entra nella circolazione finanziaria e attraverso una serie di dinamiche ne esce accresciuto, ne esce avvalorato con un aumento di valore. Tant'è vero che da un certo numero di anni a questa parte si usa l'espressione prodotti finanziari. Io qualche anno fa scopro che in banca, alle poste, c'è uno sportello che dice prodotti finanziari. La frase, che a voi forse non fa impressione perché l'avete vista fin dalla prima volta che vi è capitato di entrare in una banca, ma l'espressione prodotti finanziari a me all'inizio pareva, non so, 10 anni fa forse, e quando ho visto che per la prima volta in banca c'era uno sportello con scritto prodotti finanziari, mi è sembrato come un controsenso. Cos'è un prodotto finanziario? Non vuole dire niente questa espressione. La finanza non è un prodotto. Pensavo io, ingenuamente moderno ed ingenuamente industriale. La finanza è un medium, è un ambiente coadiuvatore della produzione, ma la produzione è produzione di cose, non di segni. Il segno denaro dovrebbe essere un fluidificatore della dinamica che permette di produrre, per cui se io sono un imprenditore andrò in banca per chiedere che mi diano dei soldi, perché questi soldi mi serviranno per pagare dei salari e questo permetterà di produrre degli oggetti che andranno al mercato, che verranno comprati con del denaro, e in tutto questo processo che io metto in moto, grazie al denaro, al credito, da tutto questo processo ne verrà fuori alla fine un accrescimento della massa di denaro che io ho ricevuto dalla banca, così che io potrò pagare alla banca il credito che mi hanno anticipato con gli interessi e io stesso ne trarrò un profitto. Questo pensavo io. E dunque, come si fa a dire prodotti finanziari? La finanza non è un prodotto, è un medium, è uno strumento che rende possibile la produzione di beni industriali. Ero ingenuo naturalmente, non sapevo che nel frattempo, senza dirmelo, i banchieri avevano trasformato i loro mezzi, i loro segni, in prodotti. Nel senso che tutta una serie di, come possiamo chiamarli, mi verrebbe da dire espedienti, ma non è una bella formulazione, tutta una serie di dispositivi finanziari si erano trasformati in veri e propri prodotti capaci di accrescere il denaro a mezzo denaro. Il denaro non si accresce più a mezzo merce, ma si accresce a mezzo denaro. Ma dove è iniziata una trasformazione di questo genere? Ecco, alcuni hanno cominciato a ragionare su questa questione, alcuni economisti per esempio, già negli anni 70-80 qualcuno ragionava sull'argomento: il denaro va considerato come un puro e semplice equivalente generale o invece anche come un fattore di arricchimento o addirittura come uno strumento di comando? Equivalente generale. Se io dico che il denaro è equivalente generale, capiamo tutti cosa sto dicendo, no? Cioè, il denaro è equivalente di 2 chili di pane, 1 litro di benzina, di tante cose. È un equivalente, equivale a cosa? A tutto. Con il denaro si può comprare tutto, magari non proprio tutto, ma insomma tutte le cose che si possono vendere con il denaro si possono comprare, quelle che non si possono vendere no. Però poi il denaro prova a comprare anche le cose che non si dovrebbero mettere in vendita e talvolta ci riesce. Bene, dunque il denaro è equivalente generale, ma alcuni economisti, ne cito sempre uno che secondo me è quello più importante di tutti, Christian Marazzi, che negli ultimi 10 anni si è affermato a livello internazionale come uno degli anticipatori del processo che oggi stiamo analizzando. E Christian Marazzi a un certo punto cominciò a dire, insieme ad altri naturalmente, il denaro non è solo un equivalente generale, è anche una forza di comando. Cioè il denaro non è solo capace di comprare, è anche capace di comandare. Per esempio è capace di comandare il lavoro, questo è evidente. E attraverso la sua capacità di comandare il lavoro, il denaro è capace di accrescere il proprio valore. Però tradizionalmente il lavoro industriale è lavoro che produce merci, quindi denaro comanda lavoro, lavoro produce merci, attraverso la produzione di merci abbiamo più denaro. Negli anni 70 accadde nell'economia finanziaria internazionale, accadde un evento che rimane importante nella memoria politica e nella memoria economica Qualcuno interpretò questo evento come un trasformatore profondo del ruolo della finanza. L'evento è presto detto: il presidente degli Stati Uniti d'America, Richard Nixon, decise unilateralmente che il dollaro, la divisa americana, usciva dal sistema degli scambi fissi. Cos'è il sistema degli scambi fissi? Noi non siamo economisti, quindi siamo autorizzati a non saperlo, e io cerco di spiegarlo, e non essendo io un economista, lo spiegherò in termini semplici, elementari. Nel 1944, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, mentre i tedeschi stavano avviandosi alla disfatta, i vincitori, quelli che stavano per vincere definitivamente la guerra, cioè gli americani, rappresentati dal presidente Truman, gli inglesi, rappresentati da Winston Churchill, i francesi, rappresentati dal generale de Gaulle, che in quel momento guidava la resistenza francese, ma che poi sarebbe diventato il presidente della Repubblica Francese, e i russi sovietici, rappresentati da Giuseppe Stalin, che era il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e quindi il capo di quel paese, si incontrano in una cittadina inglese. Si sono incontrati in diversi posti. Il posto più noto in cui questi capi di Stato si sono incontrati è una città della Crimea che si chiama Yalta. Yalta forse ce l'avete nell'orecchio, perché a Yalta, nella primavera del 1945, un po' più tardi, i capi dei paesi vincitori stabilirono l'ordine del mondo del dopoguerra, l'ordine del mondo che ha effettivamente governato la geopolitica mondiale fino all'anno 1989. Perché poi, come sapete, nell'89 l'impero sovietico crolla, inizia a crollare con la rivolta dei paesi dell'Europa dell'Est, con un progressivo crollo del potere sovietico su gran parte del mondo. Quindi nel 1989 finisce il dopoguerra, finisce il sistema di Yalta. Voi nell'89 non eravate ancora in grado di seguire la politica mondiale, suppongo, ma sapete che il 1989 è stato un anno importante. Ecco, è l'anno di Tiananmen in Cina, è l'anno della storia di Solidarność in Polonia, è l'anno in cui Gorbaciov inizia a smantellare il sistema sovietico. Nel 1991 Gorbaciov, segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, dichiara che l'Unione Sovietica è finita, ha cessato di esistere. La fine dell'Unione Sovietica è la fine del XX secolo, insomma è la fine della guerra fredda e dell'ordine bipolare del mondo. Quindi, ma fino al 1989 il mondo è governato da questa bipolarità sovietica-americana, e nel 1945 a Yalta si era stabilito questo ordine del mondo. Di questo ordine politico del mondo fa parte un aspetto, che è quello economico, che viene formalizzato dalle potenze vincitrici in una cittadina inglese che si chiama Bretton Woods. Ecco, forse Yalta lo avete sentito poche volte, ma Bretton Woods dovreste averlo sentito nominare più volte, perché recentemente, nel cataclisma finanziario, spesso i giornalisti, i politici hanno detto: qua stiamo andando verso un superamento dell'ordine di Bretton Woods. cos'è Bretton Woods? A Bretton Woods, nella cittadina inglese così chiamata, i vincitori, in realtà è un incontro di economisti soprattutto, naturalmente, gli economisti delle potenze vincitrici si incontrano per stabilire che dopo la guerra il sistema economico internazionale sarà regolato da un sistema che viene definito sistema dei cambi fissi, secondo il quale le diverse monete delle potenze mondiali non possono decidere una svalutazione, una rivalutazione, un cambiamento del loro valore senza interagire con tutte le altre monete. Per cui in un certo senso ogni moneta deve fare riferimento ad un sistema mondiale di interdipendenza, diciamo così. Non sono in grado di spiegarvi la questione in maniera più dettagliata, ma cercate di vederlo come un atto di concatenazione e quindi di dipendenza del valore economico di ogni moneta nazionale in un sistema collegato a livello planetario. Questo che cosa comporta? Mi scuso moltissimo e ti amo più tardi. Questo che cosa comporta? Comporta una dipendenza delle economie nazionali rispetto ad un sistema globale che doveva in qualche modo garantire un equilibrio economico. Nei decenni successivi, questo accade nel 1944, Bretton Woods, patto economico mondiale del dopoguerra, che stabilisce una interdipendenza del valore delle monete a livello globale. Questo ordine regge fino agli anni 70 in maniera molto efficace, efficiente. Poi, in questi decenni, gli Stati Uniti d'America sono andati accumulando un potere politico, militare ed anche economico che ha fatto di quel paese la potenza mondiale indiscussa, anche se impegnata in una guerra fredda con l'Unione Sovietica. Però l'America era negli anni 60 e 70 una potenza, la potenza capace di decidere le sorti politiche dell'Occidente e in qualche modo del mondo. In quegli anni gli Stati Uniti sono impegnati però in una guerra, la guerra del Vietnam, che è una catastrofe dal punto di vista politico per la potenza americana, al punto che alla fine gli americani dovettero abbandonare il Vietnam con una sconfitta militare evidente, conclamata, indiscutibile. Questa sconfitta politica non ha degli effetti anche sul piano economico effettivamente, ma in termini strategici gli Stati Uniti mantengono il loro predominio economico pur vivendo una sconfitta politico-militare, e questo potere economico si consolida fra gli anni 60 e gli anni 70 grazie ad un'egemonia degli Stati Uniti sul petrolio. Il petrolio, che è diventato in quegli anni, che era già diventato, era incontestabilmente la merce per eccellenza nel mondo, diciamo la merce delle merci. Senza petrolio tutto si ferma, e dunque il sistema automobilistico dipende dal petrolio, ma paradossalmente anche la produzione di magliette o di vestiti dipende dal petrolio, perché senza petrolio non lo potete distribuire, non potete far andare le macchine, eccetera, eccetera. Dunque il petrolio è la merce per eccellenza. E dagli anni 50 in poi, e poi sempre di più negli anni 60, il petrolio si scambia in dollari. Per cui il dollaro, ridefinito come petrodollaro, diventa la moneta di riferimento egemone. Allora, nel 1971 il presidente Nixon compie un gesto che che cambia i rapporti finanziari e economici nel mondo, dichiara che la moneta americana non dipende più dal sistema stabilito a Bretton Woods. Tutte le altre monete debbono rispettare il sistema di cambi fissi, ma il dollaro non risponde più all'autorità internazionale, cioè fluttua liberamente sulla base di una decisione unilaterale degli Stati Uniti. Questo potenzia enormemente il dollaro stesso, che in questa maniera riesce a controbilanciare gli effetti negativi della guerra nel Vietnam, esercita una attrazione fortissima sulle altre monete, perché chi aveva capitali in lire italiane o in franchi francesi naturalmente ha interesse a investire in dollari americani, perché il dollaro a quel punto ha affermato una sorta di predominio assoluto rispetto alle altre monete. Ma questo introduce anche un principio nuovo nel pensiero economico, che possiamo definire in termini non economici ma piuttosto filosofici come un principio di aleatorietà o di arbitrarietà della definizione del valore. Badate, si tratta di un passaggio che agli economisti importa poco, ai filosofi e ai politici importa molto di più. C'è un particolare, un filosofo francese che io ho già nominato più volte, che continuo a nominare perché mi sembra quello che oggi ci permette di capire di più, si chiama Jean Baudrillard, è autore di molti libri, forse troppi, se ne scriveva di meglio era meglio, di meno forse ci avrebbe guadagnato, ma alcuni dei suoi libri sono, dal mio punto di vista, assolutamente fondamentali per la comprensione del mondo in cui viviamo. È un libro pubblicato nel 1976 con il titolo La mort et le chance symbolique et la mort, la morte e lo scambio simbolico, no? Lo scambio simbolico e la morte, anche nell'edizione italiana, che è un'edizione Feltrinelli. E io vi consiglio la lettura di questo libro, ve la consiglio a prescindere da questo corso. È un libro anche gradevole da leggere, in cui incontrate dei passaggi che forse vi sembreranno enigmatici, misteriosi, ma anche dei lunghi passaggi che invece ad un lettore non necessariamente preparato sul piano filosofico però sono facilmente leggibili, come ad esempio i capitoli sulla moda, i capitoli sul graffitismo, un capitolo che si chiama Cool Killer, in cui viene analizzato il fenomeno del graffitismo che a quell'epoca era ai suoi albori. E Baudrillard parla dei graffiti newyorkesi come fenomeno che gli permette di interpretare qualcosa non solo sul piano estetico ma sul piano sociologico, sul piano psicoanalitico e così via. Parla della emergente pornografia di massa come un fenomeno che dice qualcosa non soltanto sulla sessualità. Insomma, un libro anche, diciamo, un libro, se posso dire così, disorganico, cioè non è un libro sistematico che va letto dall'inizio alla fine. Voi leggete un capitolo e quel capitolo è autonomo di per sé. C'è la prima parte di questo libro, l'introduzione e tutta la prima parte, che invece cerca di costruire un modello filosofico post-dialettico, post-storico, ed è la parte più difficile da comprendere, ma anche quella, diciamo, più sostanziosa dal punto di vista rilevanza interpretativa e filosofica. E cosa dice in questa introduzione? Dice: fino ad ora noi ci siamo attenuti ad un modello che possiamo definire dialettico, secondo cui ci sono le classi sociali, c'è uno scontro politico fra le classi sociali, economico e politico fra le classi sociali, e alla fine una classe vincerà Questa classe, secondo la dialettica marxista, è la classe operaia che alla fine eserciterà il suo potere in modo tale da rendere possibile il passaggio ad una società migliore. Dimentichiamoci questo modello. Questo modello esce dalla scena della storia dopo, uno, il 68, che è stato un grande movimento utopico, ma che alla fine ha perduto la sua battaglia. Baudrillard è stato parte del movimento 68, lo ha vissuto con grande passione e intensità, ma lo considera sconfitto dall'emergere di una forma nuova di capitalismo, che è il capitalismo pubblicitario, ovvero il capitalismo che tende a mobilitare, dice Baudrillard, non solo le energie economiche, ma anche le energie immaginarie, desideranti dell'umanità. Per cui Baudrillard dice, contrariamente a quello che pensano alcuni filosofi miei amici come Deleuze, Guattari e Foucault, che pensano che la prossima rivoluzione sarà una rivoluzione fondata sul desiderio e sull'immaginario, io vi annuncio una cattiva novella, che il desiderio e l'immaginario sono forze potenti, ma non giocano a favore della libertà, bensì a favore della schiavitù. La pubblicità ne è una prova, e Baudrillard dice questo proprio nel decennio in cui la pubblicità sta preparandosi a diventare, insieme alla televisione, la forza dominante. Gli anni Ottanta stanno per arrivare, e in quel libro Baudrillard anticipa decisamente, lucidamente, disperatamente, vorrei dire, gli anni Ottanta. Mentre dice questo, Baudrillard sta combattendo una battaglia filosofica che lo contrappone decisamente ad altri filosofi ai quali io personalmente voglio molto bene, appunto Deleuze e Guattari, per esempio. Deleuze e Guattari vedono nel desiderio una forza liberatrice e dicono: il 68 ha iniziato la liberazione del desiderio, ora il movimento continuerà ad esprimere questo processo di liberazione del desiderio. Baudrillard dice: non il desiderio, ma la seduzione è la forza vincente. Cos'è la seduzione? Il desiderio, proviamo a vedere queste due parole, desiderio e seduzione. Desiderio è il movimento soggettivo che permette all'energia del desiderante, immaginario, del soggetto di espandersi nel mondo e di conquistare il mondo. Il mondo viene così soggettivizzato da una forza desiderante che si sta liberando e che si esprime. Esprime, l'espressione è il venir fuori di qualcosa che sta dentro e si manifesta all'esterno. Baudrillard risponde in un libro che si chiama Della seduzione, della seduzione, no, la verità è che la forza centrale non è più il soggetto, ma è l'oggetto, e l'oggetto seduce. La seduzione è il contrario esatto del desiderio. Il desiderio è il venir fuori, l'esprimersi di una soggettività che crea. La seduzione è il dominio dell'oggetto rispetto al soggetto. È quella forza di attrazione che l'oggetto esercita assoggettando il soggetto medesimo. È la forza della pubblicità. L'oggetto, la merce, che seduce, conduce verso di sé una soggettività che non è più soggettiva, ma si inchina, assoggettata al potere al potere dominante della cosa, della merce. E in un altro libro intitolato della simulazione, sulla simulazione, Baudrillard spiega che la forza seduttiva appartiene essenzialmente ad una forma del linguaggio che è quella simulatoria. Cos'è la simulazione? La simulazione è la creazione di un mondo che non esiste, ma che seducendoti finisce per esistere, perché occupa lo spazio della tua energia, del tuo desiderio. E cos'è la simulazione? La pubblicità, la televisione, i media, la potenza dei media seducendo il desiderio della soggettività, assoggetta e domina, invece di liberarla, la soggettività medesima. Noi crediamo di esprimerci, crediamo di creare desiderando, in realtà siamo attratti, sedotti ed assoggettati da una potenza maggiore che è quella dei media, particolarmente dei media pubblicitari. Negli anni 80 Baudrillard scriverà molte cose proprio sulla pubblicità e diventerà sempre di più un filosofo, diciamo così, della sconfitta, della depressione, non dell'espressione. E, ecco, voi avete sentito parlare da me certamente, ma credo anche in altre occasioni, del pensiero di Deleuze e Guattari e di Michel Foucault, che è certamente importantissimo per capire la storia degli ultimi 30 anni, ma tenete conto del fatto che Baudrillard, che scrive negli stessi anni degli altri tre, in qualche modo, pur essendo a loro legato insomma, si tratta di pensatori critici, di pensatori della sinistra, di pensatori del 68, diciamo così, però il pensiero del 68 ad un certo punto si biforca nel corso degli anni 70. Alcuni ritengono che l'energia espressa dal 68 continui a manifestarsi attraverso la potenza del desiderio e della soggettività. Ho fatto quei nomi, potrei fare anche il nome di Tony Negri, che appartiene a questa direzione del pensiero europeo. Altri, come Baudrillard, ritengono invece che la sconfitta del 68 parte proprio dall'affermazione e dalla vittoria della macchina mediatica, televisiva e pubblicitaria. Io, adesso per quello che conta e per quello che ve ne può fregare e per quello che mi riguarda personalmente, io sono stato molto vicino al pensiero di Negri e di Guattari e Deleuze negli anni 70, ma da un certo momento in poi, tardivamente, mi sono reso conto del fatto che Baudrillard aveva più ragioni di quanti ne avessero i pensatori di desiderio. Non, qui adesso non siamo a una partita di calcio, non è che questi hanno vinto e quelli hanno perso. Nel lungo periodo il pensiero di Deleuze Guattari è stato importantissimo per spiegare molte cose, ma in termini di comprensione profonda, politica e filosofica, credo che Baudrillard abbia detto le cose più vere, se così posso esprimermi banalmente, e che oggi capiamo quello che è accaduto se ci riferiamo a Baudrillard più che se ci riferiamo a Deleuze Guattari. In particolare il libro Lo scambio simbolico e la morte ci permette proprio di cogliere questa trasformazione del mondo che segue alla sconfitta dei movimenti rivoluzionari del 68. A un certo punto Baudrillard dice: noi abbiamo sempre spiegato il mondo sulla base di un principio storico, il prima e il dopo, e il dopo contraddice il prima. Adesso dobbiamo sostituire il principio, il modello storico, con il modello genetico. Il modello genetico, guardate che è un'intuizione negli anni 70, un'intuizione straordinaria, perché Baudrillard in questo modo anticipa gli sviluppi della biotecnologia che si sono poi verificati nel corso degli anni 90. E Baudrillard dice: cos'è il principio genetico? Il principio genetico contraddice il principio storico in questo punto, che la verità futura non è il prodotto dell'azione consapevole, dell'espressione consapevole della soggettività. La verità futura è contenuta nell'informazione genetica originaria. Nel gene ci sta scritta la storia futura. E cos'è il gene? Il gene è l'algoritmo informatico. Le tecnologie informatiche e genetiche stanno modificando la struttura stessa dell'insieme sociale in maniera tale che un modello genetico finisce per dominare e per preformare la storia stessa del mondo che verrà. Ma, si chiede Baudrillard, quando è che questa trasformazione è divenuta evidente? E la sua risposta è proprio centrata intorno all'atto del presidente Nixon di dichiarare la aleatorietà ed arbitrarietà del valore del dollaro. Cioè, dice Baudrillard, il ragionamento è complicato, ma provo a sintetizzarlo. Dice Baudrillard, nel momento in cui Nixon dichiara che il dollaro non dipende più da un sistema universale, sta affermando che non c'è più nessuna legge, che l'unica legge consiste nella forza e che la forza non è più una forza, diciamo, che si esprime secondo un principio di tipo storico, ma la forza è espressione di un predominio che sta iscritto all'interno della costituzione, della genetica stessa dello sviluppo umano. Il dollaro diventa in qualche modo una specie di ipersoggetto che dominerà la scena del futuro in maniera aleatoria vuol dire non più riferibile a nessun sistema fisso, ed arbitraria, e arbitraria vuol dire sulla base della pura e semplice potenza della volontà. Io qui interrompo perché sto per svenire, quindi mi andrei a mangiare qualcosa e sto perdendo coerenza, per cui negli ultimi 5 minuti non sono stato chiaro, per cui cercherò di riprendere di qui e poi di giungere al punto, il punto del quale vogliamo parlare, cioè in che modo la finanza si emancipa dall'economia reale, dal referente, in che modo un segno si emancipa dal referente, e vedremo che l'atto di Nixon è proprio un atto che dichiara la indipendenza del segno, il dollaro, rispetto al referente, l'economia reale del mondo. Ci rivediamo fra un quarto d'ora, ok?